L'Associazione dei Popoli Minacciati ha lanciato un appello ai Paesi membri dell'Unione Europea affinché si aprano le consultazioni per l'entrata della Turchia nella stessa Unione solo dopo che il governo di Ankara abbia definitivamente risolto i suoi limiti di democrazia interna. Siamo con Mauro Di Vieste, portavoce dell'Associazione Popoli Minacciati, che ci spiega i contenuti di questo appello. Uno dei motivi che riteniamo non debbano portare a formalizzare in questo momento l'entrata della Turchia in Europa è il problema dei profughi interni. Secondo nostre stime ci sono quasi 2,5 milioni di profughi curdi e sono stati il risultato di quello che insomma ha fatto l'esercito turco, la distruzione di 3.400 villaggi, l'avvelenamento dei pozzi, l'uccisione del bestiame, e tutto questo ha provocato appunto un dislocamento forzato di circa 2,5 milioni di persone. Oltre alla questione curda sono altri 4 punti che voi avete lanciato nel vostro appello, ce li può descrivere in sintesi? La nostra posizione riguarda la situazione degli oltre 3,500 prigionieri politici, per la stragrande maggioranza curdi, ma non solo, appartengono anche a un'ipotetica opposizione politica turca. E l'occupazione di Cipro, che ci sembra anche importante. Nel 1974 la Turchia occupò l'isola e l'80% della popolazione che si trovava nella parte occupata, nella parte nord dell'isola occupata dall'esercito turco, dovette andare via. Noi chiediamo che ci siano delle restituzioni o degli indennizzi e che comunque si consenta di tornare a casa chi volesse ricongiungersi diciamo anche con i suoi familiari nella parte nord. Non ultima la situazione della minoranza cristiana in Turchia. Praticamente la Chiesa non viene riconosciuta come entità giuridica, per cui non c'è nessuna certezza sulle proprietà. Questo per quanto riguarda la situazione giuridica, e poi esiste il problema delle minoranze etniche e religiose, come per esempio tutta la zona di Turabdin. E infine una cosa che per quanto riguarda la stabilità dell'intera regione ci sembra molto importante è la continua minaccia al confine con l'Iraq relativamente alla zona che attualmente è quella autonoma del Kurdistan iracheno. Se la Turchia rispetto a questi punti desse qualche segnale sostanziale, concreto, di apertura verso questo tipo di problemi, sicuramente si potrebbero iniziare le trattative per l'entrata nell'Unione con uno spirito completamente diverso. Ringraziamo Mauro Di Vieste.